Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, oggi un nuovo amico per Palla Spicchi, certamente non per gli appassionati di basket, una voce molto nota da Sky, Alessandro Mamoli. Ciao Alessandro, grazie. Ciao, grazie a voi per l'invito. 80024, 0024 invece è per la voce dei nostri ascoltatori, quella di Dan Peterson c'è sempre. Ciao coach. Ciao ragazzi, Mamoli, un abbraccio, ok? Ciao coach, è sempre un piacere. Coach, un piacere mio. Ci sono stati sorteggi di Champions League, non so se ti piace Milan-Barcellona, non credo. Guarda, io sono un po' contrario ai sorteggi a questo punto qua, cioè stabilisci un tabellone e via. Tabellone è quello lì, tutto per fare movimento, pubblicità e poi esatto. Le cose finiscono con forse le due squadre più forti, che sono Milan e Barcellona, si incontrano nei quarti finale. Per me è una cosa demenziale, però a fare loro. Beh, più forte il Milan non saprei. Comunque, l'Inter è andata a casa, ma in confronto ai Knicks, quelli dell'Inter sono dei dilettanti. D'Antoni che conduce l'ultimo allenamento, poi va alla mattina, poi va in ufficio e dice mandate via Carmelo Anthony, gli dicono no, non possiamo, consegna il fischietto, la sera va in panchina Mike Woodson con i Trail Blazers, tutto il Madison Square Garden imbestialito soprattutto nei confronti di Anthony, però la folla è femmina, Anthony comincia bene, New York vince di 42 e adesso non so cosa succede. Well, innanzitutto è logico che la reazione della squadra dopo l'esonero, se vogliamo dire le dimissioni di Mike, è quello, cioè questo succede quasi sempre, e anche Anthony che era sotto prova per dimostrare poter giocare come squadra. 7 assist Anthony, non ha mai fatto 7 assist neanche in un anno, tanto per dire, però questo è logico, e hanno la possibilità di vincere questa sera in casa e altre partite, quindi possono fare una striscia vincente e rientrare nel discorso playoff, assolutamente, però la situazione lì è veramente per dire incasinato e dir poco. Sì, Ale, come la vedi tu? Ma abbastanza come il coach, nel senso che credo poco alla classica reazione, che è il termine calcistico, dopo il licenziamento dell'allenatore, anche perché è difficile che un allenatore che ha allenato la squadra fino a 10 minuti prima, poi la squadra va in campo e fa delle cose diverse, anche se io ho guardato i primi 4 possessi della partita, sono stati 4 isolamenti per Carmelo Anthony. Vorrei vedere cosa succede nelle prossime, anche perché hanno giocato contro i Blazers e McMillan, sapete che fine ha fatto se avete seguito le notizie della notte NBA. Già adesso, tra venerdì e sabato, loro hanno quella che in America chiamano la Home and Home Series contro gli Indiana Pacers, che è una squadra che ha un record da playoff. Vediamo già intanto queste due partite. Restrei sul tema NBA, anche con te, Cos, perché nella notte, finiti gli scambi, i più rumorosi, Nenè, che è stato sostanzialmente rilasciato o regalato da Denver a Washington. E poi c'è Derek Fisher, il senatore, il venerabile, che viene rilasciato dai Los Angeles Lakers. Well, innanzitutto hanno scambiato Derek Fisher a Houston e dicono che adesso Houston lo taglierà per l'amnesty, quelle cose lì, e che può tornare ai Lakers, tanto per dire. Quindi vediamo come finisce quella storia lì. Per quanto riguarda Nene, ovviamente hanno preso JaVale McGee, che è un giocatore di grande talento, ma senza cervello. Infatti la barzelletta in America è che ha voluto mandare a Denver McGee per vedere come funziona il suo cervello a 1600 metri di altura, okay? Con meno ossigeno possibile. Penso che Denver abbia voluto un giocatore giovane, promettente come McGee, non un giocatore ancora, però sano fisicamente, integro fisicamente, mentre in Nene ci sono sempre gravi problemi per lui fisicamente. Volevano andare via uno non sano per uno sano. Lo vedi così anche tu, Alessandro? Ma proveranno a vedere se, come dice il coach, l'area di Denver può far bene a McGee. Al cervello di McGee. Sì, perché in questo momento poi credo che su Facebook i suoi video delle cose poco belle che ha fatto in campo stiano veramente, siano tra i più cliccati. Io voglio essere un po' più pessimista. Ho ascoltato l'intervista a Masai Ujiri, il general manager dei Nuggets, questa mattina. L'unica vera domanda che ti viene, che ti fai, è perché cedi un giocatore come Nene dopo che hai provato così tanto a rifirmarlo e gli hai appena fatto un contratto da 67 milioni di dollari. Dietro a questo scambio penso ci siano delle questioni salariali, a meno che veramente l'area di Denver farà bene a McGee, dubito che loro lo rifirmeranno, rifirmeranno invece Wilson Chandler prima o poi, è questione di poche ore, gli faranno il contratto, probabilmente anche a lunga scadenza. L'anno prossimo scade Andre Miller, i Nuggets saranno in una posizione il prossimo anno e soprattutto tra due anni in una posizione salariale in cui hanno comunque una squadra giovane. Farid, ad esempio, un giocatore che a me piace molto, e anche Mozgov è in crescita, quindi in quella posizione evidentemente hanno pensato che potevano rinunciare a Nene e avrebbero eventualmente la possibilità di firmare un ulteriore giocatore. Hanno fatto una valutazione, hanno detto così probabilmente non ci avviciniamo al titolo, proviamo in una maniera diversa, vediamo cosa succede i prossimi a lavorare per il futuro. Prima di farvi sentire il tweet di Dan Peterson, che è uno degli appuntamenti più gettonati del momento, coach, ti voglio dire, hai sentito cosa ha detto Scariolo una settimana fa ai nostri microfoni? Polverone assoluto, eh? Tu non hai voluto fare domande cattive, se le cercate da solo, ha parlato di aria rancida nel mondo del basket italiano. Accuse velate. Ovviamente io non voglio parlare troppo di questo, perché domani Sergio Scariolo andrà, dico la parola udienza, non è esattamente un'udienza così, a parlare di questo qui. Preferisco aspettare la fine. Certamente Sergio ha espresso qualcosa che ha sentito dentro di lui, e loro hanno rinfacciato: ok amico, dove sono le prove, eccetera eccetera. Poi ha fatto un altro, questo per quanto riguarda gli arbitri. Poi Sergio che l'ho scritto in email: Scariolo, complimenti per la guerra termonucleare, ok, quindi che ha scatenato, ha avuto anche uno su Pianigiani come coach part time della nazionale, quindi bisogna aspettare che il polverone, hai detto tu, si calmi un attimo per vedere quali sono le fine di queste cose qui. Cioè, tanti sassi nello stagno, sì esatto, esatto. Quindi Sergio certamente ha parlato da cuore, con proprio le sensazioni che ha avuto lui, eccetera, però ovviamente adesso bisogna aspettare la fine del discorso. Io non voglio pronunciarmi su niente adesso. Ne parleremo poi anche con Alessandro Mamoli, ma coach, questo è il tuo tweet di oggi. Jennifer Aniston scelta come la donna più hot di sempre. Ok, fantastica, ma chi ha votato forse non ha mai visto Marilyn Monroe negli anni 50. Solo in foto. Jennifer Aniston, donna del secolo, non saprei. Però se posso, il coach, e lo deve prendere come un complimento, è molto più esperto di donne che di basket. Siccome di basket è espertissimo, figurati con le donne. Per fortuna non è più in linea. Eccoci tornati, 800 24 00 24 per far sentire la vostra voce. Prima di tornare sui temi del basket americano con Alessandro Mamoli, che è qui vicino a me oggi, e di nuovo lo ringrazio, cosa ne pensi di questi sassi nello stagno di Scariolo? È cominciata, il coach ha detto, la battaglia termonucleare totale. Sono cominciate le schermaglie pre-playoff, secondo te? Sì, anche, nel senso che molti pensano, Cantù permettendo, che queste Milano e Siena possano essere poi le due squadre che si ritroveranno in finale a giocarsi lo scudetto. Anch'io onestamente faccio fatica a parlarne in attesa dell'incontro di Scariolo col procuratore Alabisio, credo si dica. Probabilmente qualcosa c'è dietro, bisognerebbe chiederlo a Scariolo, probabilmente sarà chiaro Scariolo con il procuratore nell'eventualità. Al di là di quello che poi salterà fuori, penso che comunque sia una sorta di messaggio nel dire ci siamo anche noi, vogliamo far sentire al mondo della pallacanestro che non c'è solo Siena in Italia, ma c'è anche Milano. Però, sì, poi si è aggiunta quest'altra polemica a cui Pianigiani non ha voluto rispondere, sul doppio ruolo di allenatore, commissario tecnico. Scariolo che ha detto solo in Italia succedono cose di questo tipo, altrove no. Lui che pure riveste questo doppio ruolo, ma ovviamente in paesi diversi. Mi sembrano tante punture di spillo che insomma ci stanno guidando verso i playoff, con un'area che non sarà freschissima, non solo perché è primavera. Lo scopriremo solo vivendo, come cantava quel famoso tale. Intanto ieri, anche qui è cronaca, Siena ha passeggiato su Cremona, ha chiuso per un mese il campionato italiano e adesso si tuffa nei playoff di Eurolega. Con quali prospettive secondo te? Buone, secondo me buone, perché affronta una squadra che è già riuscita a domare, se mi consentite questo termine, in passato, anche se ovviamente alcuni giocatori sono cambiati, però quantomeno l'atmosfera, ad esempio, del campo dell'Olympiakos lo conosce molto bene, e poi credo che abbia anche eventualmente una possibilità di accoppiamento quantomeno più favorevole. Correggimi se sbaglio, però la vincente di Siena Olympiakos affronterà la vincente di Barcellona Unix Kazan. Esatto. Il Barcellona è una squadra di assoluto livello, quest'anno però non ha mai convinto come nelle passate stagioni. Le squadre da evitare sono sicuramente CSKA per la stagione che ha fatto, Panathinaikos e Maccabi, probabilmente il quarto di finale più bello. Attenzione alle squadre di David Blatt, soprattutto quando sono sfavorite, anche sì. Se il sistema di gioco del Panathinaikos è ineguagliabile, secondo me ha buone speranze sicuramente di tornare alla Final Four e eventualmente poi di giocarsi un posto in finale, anche perché sì. Rispetto agli anni passati non vedo una squadra così tanto più forte rispetto alle altre. L'anno scorso c'era sempre neanche un Cesca, paio, sì, per la pallacanestro che sta giocando, sì, però se alla fine prendi i giocatori, tolto Kirilenko, tolto un paio d'altri giocatori, si affidano ad esempio a Alexej Sved, che è un ragazzino giovane, il sistema funziona benissimo, ma onestamente in gara singola non mi sento di dire sono imbattibili. Non c'è nessuna squadra imbattibile in gara singola. Sì, sono d'accordo. Piero Milano, primo ascoltatore, buongiorno. No, Piero Milano è caduto, 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire. Torniamo in America, dimmi qualcosa sulla March Madness, materia che conosci molto bene, che è iniziata nella notte. Gran finale anche qui del college basket, una delle cose più belle, se mi consenti, che si possano vedere su un campo di pallacanestro. Qui sfondi una porta aperta, perché io la ritengo la pallacanestro più divertente, sì. Sono affezionato, la seguo da ormai più di 20 anni. Ho avuto la fortuna di assistere anche a 3 Final Four dal vivo. La pazzia di marzo. Il mio primo ricordo è Isaiah Thomas in maglia indiana. 1981. Pensa un po' come siamo vecchi. Il titolo dell'81 lo vinse lui con Indiana. È la pazzia di marzo. Nella notte si sono giocate le prime partite del primo turno. Nessuna particolare sorpresa, se non semplicemente perché erano i campioni uscenti. UConn, che è stata eliminata al primo turno da Iowa State, però era un accoppiamento testa di serie numero 8 contro testa di serie numero 9. Statisticamente era dal 1996 che il campione uscente non veniva eliminato al primo turno la stagione successiva. Allora successe a UCLA, credo di ricordarmi, contro Princeton. Quest'anno è successo a UConn, però è una squadra che ha avuto grossi problemi. Il capo allenatore Calhoun ha rinunciato a diverse partite a sedersi sulla panchina per problemi fisici. Si parlava di un ambiente non bellissimo, soprattutto per giocare. Ricordiamo tra l'altro che per questioni disciplinari, per sanzioni dell'NCAA, UConn l'anno prossimo, a meno che facciano ricorso, a meno che decidano di cambiare qualcosa, non potrà partecipare alla post-season, quindi finisce presto l'esperienza al torneo di quest'anno, e l'anno prossimo probabilmente non la faranno. Vediamo se Piero adesso c'è. Pronto? Pronto, buonasera. Anzi, buongiorno, buonasera. Visto che sono le 2:20, dica. Buonasera, Massimo. Saluto a Mamoli e complimenti per questa bellissima trasmissione. Volevo chiedere una cosa velocissima a Mamoli, solo un saluto all'avvocato perché sono un suo fan sfegatato. Quindi poi la mia considerazione è questa: beh, io sono, diciamo, ammirato dal coraggio di Sergio Scariolo. Io credo che lui abbia ben in mente la strategia, se soltanto ha fiutato la preda, ha capito che Milano probabilmente è abbastanza vicina a Siena, manca ancora qualcosa e cerca di mettere un po' di pressione su Siena, ma io credo che la metta anche un po' su se stesso e sull'Olimpia. Beh, questo fa parte del gioco. Fa parte del gioco, io credo che sia bello, dopo qualche anno un po' di appiattimento, di poca guerra, sono contento, felice che Si torni a vivere un po' di tensione, un po' di incertezza, anche se poi tecnicamente bisogna riconoscere che la distanza c'è ancora, però sì. Ben venga. Poi una cosa velocissima solo su Nenè, da tifoso del Gallo e di Denver, vista da qua sembra incomprensibile, ma molte cose che vista da questa parte facciamo fatica a comprendere. O grandissima programmazione, fantastica programmazione, oppure una follia totale, non lo so, aiutateci a capire. Grazie e un saluto. Beh, lo ha fatto prima con molta chiarezza Alessandro Mamoli. Sono giochi per il futuro che con le nostre logiche vanno spiegati, come hai fatto tu Alessandro, però insomma mi sembra che Denver stia progettando il futuro. Howard invece sembrava Sembrava dovesse partire e se ne è parlato. Messo il mantello da Superman nella valigia. Se ne parla da mesi. Anche questa è una situazione piuttosto interessante. Guarda, ovviamente da qui è impossibile sapere tutto quello che è successo. Possiamo immaginare che i Magic abbiano provato a scambiarlo. Possiamo sicuramente immaginare che lui abbia chiesto più volte di essere scambiato. Il problema è che non è il calciomercato, per cui vendi Ibrahimovic a chi vuoi e compri chi vuoi. Lì ci sono delle regole da rispettare. Sì. È possibile, siamo sempre nel campo dell'ipotesi, che Orlando abbia trovato più volte giocatori adatti da ricevere in cambio, nel caso di uno scambio con Dwight Howard. Il problema è che trovi la squadra giusta, trovi i giocatori giusti e poi la squadra ti dice: bene, mi dai Howard, io però ho bisogno della certezza che Howard, una volta che arriva qua, sia disposto a rifirmare. Lui aveva indicato anche pubblicamente attraverso i giornali le sue preferenze: New Jersey, Dallas, Los Angeles Lakers. È possibile che Orlando sia andata a sondare con queste tre squadre la possibilità di scambio, se però lo scambio o comunque l'alternativa in cambio avrebbe ricevuto giocatori che, chiaro, che non interessavano. A Orlando non interessavano, è chiaro che salta tutto. È interessante la situazione in questo momento, perché è possibile che intanto Howard non volesse fare la fine di LeBron James. Orlando ha detto: non lo scambio, siamo sempre nel campo dell'ipotesi. Alla fine della stagione scegli tu, vuoi scappare come ha fatto LeBron James e poi sarai sempre inseguito dalle polemiche nel caso non dovessi vincere. Poi ricordo che si parla sempre di business, quindi certo, bisogna sempre guardare i propri interessi. Però la situazione salariale, a questo punto bisogna andare a vedere la stagione 2013-14, per Orlando è molto vantaggiosa, perché in quell'anno scade Jameer Nelson, scade JJ Redick, Turcolo ha la player option, ovvero che sceglie lui se restare dentro il contratto, presumibilmente lo farà, ma anche con il contratto di Turcolo arrivano a quella stagione gli Orlando Magic con 33 milioni di dollari sul salary cap, chiaramente con Howard scaduto. In quell'estate i giocatori liberi, faccio alcuni nomi, sono Josh Smith, Chris Paul, c'è ad esempio Deron Williams, nel caso decidesse di fare come Howard, ovvero allunga anche lui, decide di stare dentro il suo contratto, quindi la player option dice: ok, prendo questi 17 milioni di dollari e non esco dal contratto alla fine di quest'anno. In quel caso lui diventerebbe un giocatore libero nel 2013-2014. Penso anche a James Harden, forse il giocatore decisivo per i Thunder, che esce dalla panchina, che ha la qualifying offer, quindi eventualmente si possono inserire delle squadre, i Thunder faranno la loro proposta, se qualcuno arriva e offre di più è un giocatore disponibile. Se hanno fatto questo discorso a Howard, potrebbero, ma è lunghissima e poi magari lo scambiano l'anno prossimo, potrebbero averlo convinto a restare, perché poi sapete che Howard, essendo un giocatore dei Magic, anche se loro rifirmano dei giocatori, lo possono rifirmare senza guardare il salary cap, perché un tuo giocatore lo puoi rifirmare superando il salary cap e pagandolo alla salary tax. Risico, Risico. Palla spicchi. Torniamo insieme, sempre qui vicino a me, Alessandro Mamole. Presto torneremo anche a strucugliarlo su temi di basket americano, se volete, 800-24-00-24. Però vorrei parlare di un altro argomento, anche perché ho un ospite in linea. Allora, lunedì alle 20:15 c'è un'interessante tavola rotonda a Casane Monferrato. Crisi economica per il basket, minaccia opportunità? Questo è il domandone cui si tenterà di rispondere con vari ospiti, tra cui Vescovi, Atripaldi, Bonamico, Valentino Renzi, presidente della Lega, oltre al padrone di casa Giancarlo Cerutti. Un raggio di sole, quindi una prima risposta, mi piace pensarla così, è arrivata a Treviso, che si è garantita comunque il futuro. Claudio Coldebella, vicepresidente GM della attuale Benetton, diciamo così. Ciao Claudio. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio agli ascoltatori. Ciao Carlo, ciao Alessandro. Raccontaci tutto. Sì, cerchiamo di, nel senso che le minacce sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo visto quanto è difficile in questo momento fare sport, non solo in Italia, le opportunità dobbiamo cercare di crearle, ed è per questo, tra l'altro, in questo momento sono anch'io in uno studio, però in uno studio televisivo dove fra pochi minuti avremo una conferenza stampa dove lanceremo questo progetto del consorzio, perché abbiamo visto che fare sport è molto difficile e una delle soluzioni è quella di cercare comunque di costituire una base di aziende che supportino la società, per cui abbassare sicuramente il numero delle diciamo la somma economica di e aumentare soprattutto le aziende che stanno vicino alla società. Penso che questo sia una, non è un segreto, perché mi viene difficile dire un segreto dato che stiamo partendo adesso, però sicuramente una strada che pensiamo sia quella giusta. Ma c'è un socio forte, no? Sì, c'è stata la disponibilità di un imprenditore che è Bruno Zago della Progest, un imprenditore locale che ha capito lo spirito del nostro grido d'allarme, quello di non perdere una realtà così importante per Treviso, per la nostra terra, per la provincia di Treviso, una società così importante che da un anno a questa parte sappiamo e lavoriamo con un peso abbastanza, diciamo, pesante, che è quello di una scadenza entro il 30 giugno, perché c'è la dismissione da parte delle squadre professionistiche di basket e di volley da parte della famiglia Benettoni. Alessandro, vuoi chiedere qualcosa a Coldevella sul futuro di Treviso? No, se devo dire, guarda, la cosa che mi conforta di più è che comunque credo che l'attenzione al settore giovanile rimanga tale nei limiti del possibile, nel senso che parlavamo prima io e te a microfoni spenti, forse, visto che si parla sempre della rifondazione del basket in Italia, a volte sembra un discorso scontato, oggi magari non per la Serie A, perché comunque la Serie A la devi fare e devi rispondere economicamente, però sotto la Serie A, se io oggi fossi un imprenditore o comunque una società che fa della pallacanestro, la maggior parte dei soldi onestamente li investirei sul settore giovanile. Sarà così, Claudio, nel futuro? Sì, è così, però sai, ci si dimentica anche dei numeri, penso che siano importantissimi nel nostro mestiere, al di là che so quanto da manager quanto è importante rispettare un budget, grazie a Dio fino adesso una breve esperienza da manager sono sempre riuscito a far questo. I numeri sono molto importanti. Non c'è solamente un settore giovanile, però ci sono anche 22.000 ragazzi che comunque noi portiamo al Palaverde ogni anno. E questo, se vogliamo, sai, tante volte ci riempiamo la bocca molto di sociale, di questo termine e tutto, però penso che dare comunque uno spirito, una cultura ai giovani di crescita in un certo modo, anche vedendo e andando alle partite di una squadra di basket come la Pallacanestro Treviso, a Benetton Basket, penso che anche questo sia comunque un rapporto molto forte con la tua terra e anche un aspetto sociale molto importante da non dimenticare, che fa parte di quelle che sono comunque le caratteristiche o che ha una società sì professionistica, perché alla fine tutti vogliamo un risultato in campo, una vittoria, una conquista di uno scudetto, però ci sono tante cose che girano attorno a una società professionistica. Claudio, un'ultima cosa per capire chiaramente, hai parlato di cordata, è una esperienza quella che state per vivere simile a quella di Varese o qualcosa di diverso? Esattamente. Abbiamo visto e lo sappiamo tutti, e forse voi anche per ragioni di latitudine siete più vicini alla realtà varese, e mi sembra, per quanto ne so, sempre con delle difficoltà del momento e tutto, è una scelta che è stata anticipata da quella dei bravissimi di Varese, ed è una scelta che dobbiamo portare avanti anche noi, perché pensiamo sia l'unica soluzione in questo momento di non aggravare nelle spalle di un'unica persona un peso economico che poi, sai, in questo periodo è sempre difficile, per cui cercare di darlo in più aziende e mettere queste aziende anche in comune in partecipazione tra di loro, sì. In una, crearle, metterle dentro una community dove comunque il consorzio ha una sua vita a sé e dove dà la possibilità a queste aziende comunque di interagire con la squadra e tutto quello che va attorno alla squadra. Grazie Claudio, buon lavoro. Niente, grazie buon mille, lavoro. Buon grazie. Lavoro anche a voi. Grazie a Claudio Coldebella. Questo futuro, Ale? Sì, bisogna capire se... O più in generale preferisci che allarghi e faccia il domandone come vedi il futuro della pallacanestro italiana? Ma se proviamo a pigliare la sfera in mano in questo momento, Maia permettendo, non benissimo per quello che vediamo, nel senso che se la maggior parte dei discorsi degli addetti ai lavori riguarda sempre l'eventuale, il presunto mancato appuntamento con gli stipendi o le difficoltà o imprenditori che mollano, che non ce la fanno, sicuramente questo esempio... cominciato da Varese e seguito adesso dalla Benetton, aiuta, e direi che è sicuramente una situazione che riduce i rischi di vogliamo chiamarla bancarotta, magari esageriamo, però di insuccesso, come diceva Claudio Coldebella in precedenza, sulle spalle solo di un imprenditore. Sarebbe bello cominciare a pensarla magari poi successivamente invece come possibilità, risorsa, essendo in tanti, invece di investire sempre di più nella pallacanestro. Però onestamente l'epoca storica in cui viviamo economicamente non aiuta lo sviluppo della pallacanestro, come non aiuta lo sviluppo di nulla probabilmente, o di pochissime cose. 800 24 00 24, numero verde. Vi leggo anche questo messaggio: 349 238 6666. Sono Enzo da Treviso, mio figlio da quest'anno ha iniziato il mini basket in Ghirada. È un peccato che si addensino alcune nuvole all'orizzonte a Treviso. Alcune nuvole, un po' un eufemismo. Le squadre di ragazzini che abbiamo trovato nei vari tornei rimangono ammirati da questo centro quasi unico in Italia. Speriamo che l'amore della famiglia Benetton rimanga inalterato e dia un'alternativa valida al calcio. Ciao e grazie. Questo lo scrive Enzo da Treviso. Vuoi sentire invece, divertiamoci un po', dove ci porta a mangiare Gianmaria Vacir, che con Basket Chef conosco bene, sì, non vedo l'ora. Non vedi l'ora, non vedo, eccolo l'ora. Qui Basket Chef. Tesoro, settimana scorsa, notte prima dell'All-Star Game, che ti inventano una cena di gala con i giocatori e fornelli. Per carità, bisogna anche saperci fare, ma l'importante era fare qualcosa di diverso, attirare grandi ospiti per una buona causa e magari imparare il mestiere da uno chef di livello. Il menù lo è stato, così come l'appeal dei cuochi per caso, Mancinelli, White, Hackett, Diner e Coleman, che mantecando il risotto si è fatto venire balzane idee per il giorno dopo. Le avete viste tutti. Carpaccio di ombrini orate al vapore con rucole e pendolini, le tre. Risotto con pesce e champagne, da applausi. Rombo chiodato al forno con patate e fagiolini, che è stato il piatto forte della serata secondo molti dei commensali, Pozzecco compreso. Infine un dolce al pistacchio con vellutate di gianduia, roba di livello che apriva e chiudeva un'idea super carina in target con la nostra rubrica di canestri dei fornelli. Ma qui ragazzi l'affare si ingrossa. La Juve Caserta ha partorito l'iniziativa MasterChef Juve Caserta, un torneo culinario che si ispira al talent show più famoso nel mondo e prevede incontri e eliminazioni dirette tra i giocatori della squadra allenata alla Pino Sacripanti. Sono due gli appuntamenti della settimana e l'esordio col botto ci sarà tra il peso massimo Andrea Stipanovic e il fidiforme Giuliano Maresca. I giocatori saranno ripresi con la celeberrima Mystery Box, ovvero inventare un piatto con gli ingredienti che troveranno nella scatola, con tanto di televisione locale, il pubblico dei tifosi, dirigenti al seguito e degustazione finale. Apoteosi. Intanto la squadra viaggia verso Milano per il posticipo dell'ottava di ritorno. Chissà che coach Pino Sacripanti, per una volta, non conceda strappi all'inutile menù atleti e concede invece ai suoi di allenarsi in cucina per rendere più simpatica e appetitosa la vigilia di una partita impossibile. E allora mamma, butta la pasta! Mi dicono che ti piacciono le barbabietole? No, assolutamente. Mi dicono che hai letto la... gli appunti scritti proprio su Basket Circa. No, è l'unica cosa che... Alla domanda fatta dalla Circa, che sta mandando un po' a tutti, diciamo, gli addetti ai lavori del basket, le famose 5-6 domande relative a se sai cucinare, cosa ti piace o non ti piace, ho risposto che non ho problemi col cibo, a parte le barbabietole. Il pollo alla mamoli com'è? Il pollo alla mamoli è complicato, nel senso che è una ricetta di partenza che poi ho modificato. Faccio una marinatura a base di salsa di soia, succo di limone, zucchero di canna, ci aggiungo anche un po' di sciroppo d'acero, la cipolla tagliata fine, il coriandolo, un po' di zenzero, sicuramente dimentico qualcosa, poi taglio il pollo a fette a strisce, lo lascio marinare in questa salsa per una notte, è l'ideale perché si ammorbidisce moltissimo e prende il sapore, poi quando lo tiro fuori, siccome sono delle strisce, le infilo a mo' di serpente, presente serpente, quando diventa praticamente uno spiedino che poi fatto sulla piastra è straordinario. Ragazzi, siete sorprendenti. No, potrebbe essere un'idea per salvare il basket italiano, cioè far cucinare i giocatori, giocano e poi fanno da mangiare ai tifosi. Beh, interessante, sicuramente l'iniziativa della Juve Caserta è interessante, dubito che Pino Sacripanti li faccia allenare in cucina però. Palla spicchi. Eccoci tornati con Alessandro Mamoli e questo saggio di cucina. Ma ti sta piacendo il campionato italiano quest'anno? Perché siamo tornati, ho l'impressione, Alessandro, dopo qualche velleità, un po' alla situazione degli altri anni. Equilibrio pazzesco alle spalle di Siena, naturalmente. Adesso disegnare la griglia dei playoff sarà semplicissimo, anche in coda, è tutto da definire, da decidere, cambia tutto ogni domenica. Ma guarda, sicuramente l'equilibrio lo rende più avvincente, soprattutto ci sono state alcune partite che hanno dimostrato che Siena è un po' più battibile, poi magari su una serie a 5-7 partite diventa un po' più complicato. Voglio però essere onesto con te, gli ascoltatori, siccome io sono uno che cerca sempre di fare al meglio quello che fa, la mia attenzione è soprattutto concentrata e rivolta al basket d'oltreoceano, che è quello che mi impegna di più quest'anno, quindi NBA e NCAA. Devo dirti che, a parte qualche partita appena ho la possibilità, ovviamente sempre in televisione e dal vivo a Milano quando posso, le seguo, però rispetto agli anni scorsi, che eravamo la televisione che aveva, come sapete, i diritti del campionato, lo seguo decisamente molto meno. Certo. Alessandro da Rieti. Buonasera a tutti. Dica. Grazie soprattutto per dare voce al basket, che Prego. È un po' isolato dal calcio. No, e volevo solamente intervenire sempre a riguardo della polemica che è stata tirata su settimana scorsa da coach Scariolo, e fare un inciso anche di qualche anno fa per quello che è successo proprio a Rieti, una città scippata dal basket da una decisione senza precedenti, il trasferimento a Napoli, che poi ha creato la farsa che tutti purtroppo abbiamo vissuto. Che magari a Rieti vi siete risparmiati. Almeno quello sì, che purtroppo però alcuni nostri giovani hanno dovuto vivere, parte la bellissima esperienza di scendere su un campo di Serie A, però spesso ecco, la città ama il basket, ha amato nel tempo il basket, e purtroppo è stata scippata da una decisione verticistica che poco condivisibile, forse anche questo è il marcio che vive con Scariolo. Ma non lo so, non so se è così. Io ricordo comunque una società, Morente, che è rimasta in quiescenza per anni, che poi è stata spostata a Napoli ed è andata a morire altrove, quindi non era una società che stava in piedi, quella Rieti, e non stava in piedi da diverse stagioni, ed è stata, e questo è uno dei vizi secondo me della pallacanestro italiana, tenuta in piedi artificiosamente e poi si è spenta lì, è finita lì. Invece voglio tornare con Alessandro Mamoli a uno dei temi che più mi appassiona in assoluto adesso, che è sempre a New York, perché adesso c'è il tormentone allenatore Phil Jackson. Allora ti leggo i nomi di oggi sulla Gazzetta: Phil Jackson, John Calipari, Tom Thibodeau, Stan Van Gundy, in rigoroso ordine dei sogni del popolo, scrive Massimo Lopez Peña. Allora direi Tom Thibodeau molto difficile, perché a Chicago sta bene. Chicago è una squadra che, a meno che impazziscano, tendenzialmente nei prossimi anni sarà ai vertici della Eastern Conference, anche perché sono giovani. Lo stesso Derrick Rose, che è il leader, ha un futuro roseo, ha appena firmato il prolungamento del contratto. John Calipari è uno dei nomi sicuramente più caldi in questo momento, sta allenando Kentucky. Al torneo NCAA, Kentucky è la squadra candidata a vincere insieme a North Carolina, ha un eccellente rapporto con Wes, come viene soprannominato nell'NBA, che è questo losco figuro, World Wide Wes, viene soprannominato proprio per le sue connection. Non ha un ruolo ben definito, è un po' l'amico di tutti, sì. Però arriva ovunque, è molto legato a LeBron James, e sembra che ci sia dietro lui un'eventuale operazione, il tentativo di un'operazione di portare Calipari a New York. Lo vedremo, secondo me dipenderà molto anche da come andrà a finire la stagione di Kentucky. Se Kentucky dovesse vincere il titolo, che è quello che manca a Calipari, le possibilità potrebbero aumentare. Per quanto riguarda Phil Jackson, non è facilissimo, perché qui stiamo parlando dell'allenatore più vincente nella storia dell'NBA e di uno che si muove da posti normalmente comodi e agiati, tipo il ranch del Montana piuttosto che le spiagge della California, solo in cambio di condizioni che sono intanto economiche, ma New York non avrebbe problemi a liberarsi di diversi milioni di dollari da dare all'allenatore, perché l'ha fatto anche in passato, anzi ha sperperato in passato. Però io credo che lui si muova solo nel caso gli presentassero davanti una squadra da titolo, una squadra vincente. Attualmente, onestamente, nonostante sia per talento una delle prime, forse 3-4 squadre, della Eastern Conference, dubito che questa sia una squadra che possa, composta così, arrivare al titolo, non fosse altro per la convivenza Carmelo Anthony Stoudemire, che sono due giocatori che devi portare in difesa. Detto questo, mai dire mai con New York. Mai dire mai. Flavio Tranquillo, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao. Beh, però sarebbe il finale più bello della favola, eh? Phil Jackson che torna a New York, insomma, e magari la porta al titolo, comunque magari riesce a ricreare un po' di suggestione. Beh, che torni è possibile, una favola che nel caso di NBA cara, ma cara Non credo che sia un allenatore che porta il titolo alla squadra di per se stesso. E quindi, se questa è la squadra, secondo me non la porta il titolo nessuno, il titolo. Però ci sono degli elementi e soprattutto c'è un'abbondanza, per cui eventualmente facendo le cose giuste ci si potrebbe anche provare, e in quel caso l'allenatore diventerebbe un elemento importante, chi meglio di Phil Jackson. Però l'appunto è quello, ci sono gli elementi per provarci davvero a fare le manovre giuste lì? Io tendo a dubitarne vista la storia recente, ma magari mi sbaglio io. Vorrei un confronto tra te e Alessandro Mamoli, a microfoni accesi, come magari ne fate a microfoni spenti 20 al giorno, su questa notte dell'NBA, su questa notte degli scambi. Cosa ha detto a te Flavio? Ma ha detto che questa è una stagione molto particolare, in cui non è facile valutare le cose, e alla fine nessuno se l'è sentita di fare la scelta che ti condiziona o personalmente o come franchigia per la vita. Il caso principale è quello di Howard, il che ha avuto delle conseguenze forti, perché per esempio chi su quella scelta aveva investito tutto come New Jersey si trova condizionato. L'unica eccezione mi sembra Denver, che ha fatto una cosa che normalmente non si fa, cioè apparentemente, e sottolineo apparentemente, rinnegare una propria scelta di 3 mesi prima, ma anche in questo caso in realtà la scelta era stata fatta sapendo di avere questo tipo di via d'uscita. Quindi non è un mercato, è tutto tranne che un mercato, ma lo definiremmo un mercato interlocutorio se fossimo al, una volta lo facevano al Gallia, adesso non so dove lo fanno, all'Hilton, non me lo ricordo più. Alessandro, ma io proverei magari a concentrarmi sulle trade di cui non abbiamo ancora parlato. Troppi secondo me ritengono che Nick Young possa far fare il salto di qualità ai Clippers. È possibile, anche se molti si aspettano che faccia quello che faceva Chauncey Billups prima dell'infortunio. Io aspetterei, nel senso che è un giocatore che tiene molto la palla in mano, dovrebbe un po' cambiare il suo modo di giocare, soprattutto nella squadra di Chris Paul. Però se funziona, funziona, perché poi a Los Angeles, una città che così ad occhio e croce dovrebbe piacergli, di Denver ha già parlato Flavio, ne abbiamo già parlato in precedenza, e sono molto curioso nel vedere come eventualmente si inserirà Ramon Sessions all'interno dei Lakers. Sicuramente avevano un deficit atletico in quel ruolo, Sessions lo può dare, è pur sempre la squadra di Kobe Bryant. Se dovessero per sbaglio funzionare, devi poi sempre giocare nei playoff contro Kobe Bryant, Bynum e Gasol, eventualmente un playmaker che può dare un senso alla squadra, anche se parlare di playmaker nel 2012 non è che bizzarro, mi piaccia tantissimo. È bizzarro, sì. Un minuto di replica Flavio, tranquillo, e poi chiudiamo e ci aggiorniamo a domenica. Assolutamente tutto molto interessante, ma non saranno Young e Sessions che cambiano gli equilibri ad alto livello, come è interessante quello che ha fatto San Antonio, che si è liberata di un giocatore che lì non c'entrava, perché può succedere, anche i migliori sbagliano, hanno sbagliato la valutazione su Jefferson, o Jefferson non si è adattato, o gli altri non si sono adattati a Jefferson, non è importante, lì non produceva, non avrebbe mai prodotto. Hanno mollato 21 milioni di dollari per le prossime 2 stagioni dopo questa, in cambio di Steven Jackson, che invece lì si adatta e comunque ha un anno in meno di contratto e comunque è già stato lì ed è un vincente. È un'operazione sicuramente brillante, ma se vinceranno o non vinceranno il titolo dipende o da Duncan e Ginobili o da Ginobili e Duncan. Quindi è questa la fotografia, sono operazioni importanti, interessanti, ma la dialettica su chi vince o chi non vince per quest'anno non mi sembra che la cambi. Grazie Flavio, sentiamo domenica sera. Saludos. Grazie anche ad Alessandro Mamoli, che prego di tornare a trovarci quando volete, è stato un piacere. Grazie davvero. Franco Piantanida in redazione, noi ci sentiamo con lo sport domani pomeriggio alle 5. Buonasera a tutti.